storie italiane. L'onesta Jenny. Non molto tempo fa, in una piccola città chiamata Riverdale, vivevano tre amiche: Monica, Jenny e Gloria. Il giorno in cui la nostra storia ha inizio, Monica era molto contenta perché sua madre le aveva comprato un regalo speciale. Monica, vieni, forza, o farai tardi per la scuola. Pensavo volessi mostrarla ai tuoi amici sull'autobus. Gliela mostrerò a scuola. E se cadesse dalla mia mano e si spezzasse? Grazie, mamma. Questa è la matita più bella, più carina, più adorabile di sempre. Prego. Adesso affrettati, vai, o l'autobus partirà. Quindi è così che risolviamo... Ho qualcosa da farti vedere. Wow, questa è una matita o una bambola? È la mia matita bambola o bambola matita? Non ho mai visto una matita così. Vorrei averne una. Non toccarla, si romperà. Le matite non si rompono solo toccandole. E se lo facesse? Cosa sta succedendo lì, Monica? Scusi, maestra. A giocare, tutti fuori, ma tornate in tempo per la lezione di inglese, ok? Dai, Monica, giochiamo ad acchiappino. No, devo stare in classe per prendermi cura della mia matita. Che sciocca, vieni a giocare. Se non vieni, prenderò la tua matita e la romperò. Gloria, non dire cose così orribili. Ti sto solo prendendo in giro, vieni. Ho dimenticato i miei occhiali in classe. Gloria, per favore, potresti andare a prenderli? Sì, maestra. Dov'è la mia matita? Non c'è più. Deve essere da qualche parte, dai, cercala. Cos'è tutta questa confusione? Maestra, la mia matita bambola, la mia nuovissima bambola matita, non riesco a trovarla. Dove l'avevi messa? L'avevo messa nella mia borsa e ora non c'è più. Sei sicura di non averla portata al parco giochi o a pranzo? Sono sicura, maestra, qualcuno l'ha rubata. Monica, prima di accusare qualcuno di aver rubato, vai a cercare la tua matita. Andrò con lei, maestra. Controlli la borsa di Gloria, maestra. L'ho vista guardare la matita quando era venuta in classe per gli occhiali. Cosa? Vedete? Non ce l'ho. Come puoi accusare qualcuno di furto, Monica? La cercavano dappertutto. Ma la matita non si trovava da nessuna parte. La matita è stata rubata, maestra. Sono sicura che è solo persa, Monica. Se qualcuno trova la matita di Monica, è pregato di restituirla. Jenny, vieni a cena. Che cosa c'è? Perché piangi? Non sono la ladra, mamma. Lo so, Jenny. Dimmi, cos'è successo a scuola oggi? Ho preso la matita bambola di Monica dopo essere tornata dai giochi per la lezione di inglese. Ho visto la matita cadere sotto il suo banco, quindi l'ho nascosta per fare uno scherzo, lo giuro. Bene, allora restituiscila. Non posso. Stavo per restituirgliela quando all'improvviso ha detto che qualcuno le ha rubato la matita. Hanno detto che Gloria l'aveva rubata. Ho avuto paura, mamma. Chi mi crederà se dico che l'ho nascosta solo per divertimento? Penseranno tutti che l'ho rubata. Non è quello che pensano gli altri che conta, Jenny. Dimmi, vuoi che la tua migliore amica si senta triste? Mai! Ma cosa faccio ora, mamma? Vai a scuola domani e racconta tutti quello che hai fatto. Chiedi scusa e restituisci la matita. Se lo faccio, tutti mi chiameranno ladra! Monica e Gloria non mi parleranno mai più! Questo è un rischio che dovrei correre. Vuoi fare la cosa giusta o no? La verità ha un sacco di potere, Jenny. Se dici la verità, anche se gli altri saranno arrabbiati con te per qualche tempo, alla fine ricominceranno a volerti bene. Mamma, ho paura! Per favore, vieni con me a scuola domani! No! Se vengo con te, non imparerai mai il valore del coraggio. Dovrai fare questa cosa da sola! Ti voglio bene, Jenny, e sono dalla tua parte, ok? Ok! Qualcuno ha trovato la matita di Monica? Io, maestra? La mia matita! Grazie, Jenny! L'hai trovata! No, io non l'ho trovata. Io l'ho presa. Cosa? Ieri la matita di Monica è caduta fuori dalla sua borsa durante la lezione di inglese e ho pensato che sarebbe stato uno scherzo nasconderla per un po', ma mentre stavo per restituirla ha detto che qualcuno l'aveva rubata. Ho avuto paura. E sei rimasta zitta quando hanno detto che l'avevo rubata io? Mi dispiace, Gloria, mi dispiace molto. Hai mostrato la tua borsa a tutti e ti hanno creduto, ma ero così spaventata. Se avessero visto la bambola nella mia borsa, mi dispiace, Gloria. Jenny, non ti parlerò mai più! Jenny è una ladra! Basta così. Silenzio tutti. Non vi rendete conto che Jenny avrebbe potuto non restituire la matita? Ma l'ha fatto! Avrebbe potuto mentire, dicendoci di aver trovato la matita da qualche parte, giusto? Va bene sottolineare gli errori degli altri, ma ci vuole davvero coraggio per ammettere i nostri stessi errori. E Jenny ha fatto proprio questo. Dovremmo essere orgogliosi di lei. E ditemi, studenti, Jenny non è una brava ragazza e la vostra amica? Non è sempre stata una studentessa laboriosa e una gentile, utile compagna di classe con tutti? Sì, signora. Jenny è sempre stata gentile con tutti. È gentile, amichevole e lavora sodo. Sì, signora. Jenny è sempre stata gentile con tutti. È gentile, amichevole e lavora sodo. E Monica, ami la tua matita. Ma ciò non significa che ti lascerai prendere dal panico se dovessi perderla. Come hai potuto pensare che qualcuno l'avesse rubata? Mi dispiace, signora. È colpa mia se Jenny si è spaventata. Chiunque avrebbe avuto paura se avesse pensato di essere chiamato ladro solo per aver fatto un piccolo scherzo. Mi dispiace, Jenny. Mi dispiace di tutto. Ci dispiace, Jenny. Sei davvero coraggiosa. Scusa, Jenny. Solo le persone coraggiose avranno la forza di accettare i propri errori e dire la verità. Ricorda, l'onestà è sempre la scelta giusta.